Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Per questa puntata estiva di pieno agosto abbiamo scelto di mandare in onda la replica di una trasmissione, ma non per pigrizia, per assenze dovute alle vacanze o non solo per quello. Si tratta di una puntata dedicata agli animali acquatici e alla fauna marina, che ci sembrava particolarmente appropriata visto il periodo. Buon ascolto! Buongiorno, buongiorno! Dalla scialuppa a remi di Restiamo Animali vi gorgoglia il suo più spumeggiante saluto la redazione composta da Alessandra Giannini, Beatrice Montini, Camilla Lattanzi, Elisa Moretti, Giuseppe Coco, Lorenzo Guadagnucci e Massimo Chiari. Siete tutti pregati di salire a bordo per intraprendere un altro mirabolante viaggio nei diversi modi di vivere, pensare e agire cruelty free, senza procurare sofferenza e morte agli altri animali, riconoscendo alle altre vite i nostri stessi diritti in una prospettiva di amicizia e fratellanza fra specie, facendo di ogni incontro con l'altro un'occasione di meraviglia, di crescita e una ricerca di nuovi modi per portarsi rispetto. La puntata di oggi sarà particolarmente speciale in quanto ambientata nel misterioso, seducente e ai più invisibile mondo acquatico. Noi salpiamo l'ancora e voi, ascoltatori cari, mollate gli ormeggi, che si parte. Giuseppe, comandante in seconda, secondo ufficiale di coperta, nostromo, telegrafista o insomma quello che vuoi tu, zampillaci una playlist abissale. La playlist di oggi potrebbe essere pensata da Peter Greenaway e chiamarla Sette donne, un orso grigio e un mistico. In sottofondo un personaggio il cui nome fa pensare a Shrek, ma la vegana Fiona la Mela non ha nulla a che vedere con la moglie dell'orco. Avremo modo di ascoltare la Venere bionda francese per antonomasia, che oltre a recitare ha pure cantato, direi meglio ha sfiatato, nei lontani anni 60 prima di diventare un attivista animalista. Ci sarà spazio per due cover di Tim Buckley che parlano di creature marine e una in particolare nella versione che ascolteremo è un capolavoro irraggiungibile fatto da spire mortali dietro cui si cela l'eterea Elizabeth Fraser. Degli orsi grigi invece ci cantano di quanto è profondo il mare blu. L'impronta orientale è forse la carta vincente di Yoko Ono, artista poliedrica nota più per essere la signora Lennon che per le sue discutibili doti artistiche. È diventata l'icona del gay pride newyorkese di qualche anno fa con Every Man, Every Woman, in versione remix che ci accompagnerà nella preparazione del pasto. Confesso che ho conosciuto l'iscritta animalista di Plutarco dopo aver ascoltato Sarcofagia, il brano che Battiato e Sgalambro hanno composto attingendo dagli scritti del filosofo che farà da colonna sonora alla nostra perla. E a proposito di filosofi, il nostro Val Lauri sarà musicato da Rossini, grazie a una famosa romanza del Barbiere di Siviglia, che voglio dedicare alle collaboratrici del programma, perché è un brano cantato da Rosina, che parla delle donne di come sanno essere comprensive, accondiscendenti, ma se vengono punte nel punto debole, si trasformano in un velenosissimo rettile. Indovinate quale? La chiusura è affidata ad una donna vegana, protagonista dell'estate musicale fiorentina, Alanis Morissette, che coverizza un hit anni 90, ovvero Crazy di Seal. Diciamo, un'autodedica che mi faccio. Amenità di forate, sciocchezze e cose serie sulla playlist e altro le trovate su restiamoanimali.wordpress.com, a cui potete accedere dalla home page di Controradio. Contro l'arresto e l'estradizione di Paul Watson, il fondatore e capitano di Sea Shepherd, la redazione di Restiamo Animali denuncia ogni tentativo di criminalizzazione degli attivisti che in tutto il mondo si impegnano disarmati, in evidente svantaggio di forze e di risorse, per salvare la vita di animali sensibili e senzienti o per documentare le loro condizioni di allevamento, sfruttamento, lavoro, combattimento, la loro tortura, uccisione e ogni traffico legale e illegale che li vede usati come merci. L'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come riformato a Lisbona, impone agli Stati membri di tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti. Questo principio si impone come prospettiva di modifica delle leggi esistenti, ma anche come parametro di eventuale superamento delle sanzioni a chi garantisce nei fatti il diritto degli animali alla vita. Watson, come gli attivisti di Montichiari, se hanno violato normative esistenti, l'hanno fatto scientemente, per far valere direttamente e senza intermediazioni i valori animalisti, nell'ottica dell'articolo 13 del Trattato di Lisbona. Per questa ragione non possono venire equiparati a delinquenti comuni. Pretendiamo l'esercizio di un legittimo diritto di resistenza attiva, in difesa degli animali, per proteggere la loro vita e il loro benessere, in ottemperanza di quanto formalmente sancito dal Trattato dell'Unione, che le normative esistenti ancora impediscono o vietano. Prima donna a indossare un bikini nel 1952, è suo uno dei primi topless sulle spiagge della Costa Azzurra. Incarna perfettamente il glamour degli anni 60 e il suo stile inconfondibile è spesso riproposto dalle riviste di moda. Le sue forme hanno arroventato i sogni di milioni di persone, al punto che il Vaticano ne fece un simbolo del male e dell'immoralità. Stiamo parlando di Brigitte Bardot, una diva la cui naturalezza è sembrata la più perversa di tutte le sofisticazioni. Acconciata con selvaggia negligenza, un broncio puerile sulle labbra, cammina a piedi nudi e se ne infischia di come è vestita. Non porta belletti, gioielli e tacchi alti, non si profuma, non fa uso di nessun artificio. Purtuttavia, anche un santo si dannerebbe soltanto a vederla danzare. A soli 38 anni abbandona i riflettori, chiude con il cinema, il glamour e la bella vita per dedicarsi alla tutela dei diritti degli animali contro la caccia e le pellicce. A questo scopo, nel 1986, la Bardot mette all'asta i suoi gioielli, oggetti personali e reperti di scena, raggranellando l'astronomica cifra di 3 milioni di franchi, con i quali lancia l'attività della Fondazione Brigitte Bardot per il benessere e la protezione degli animali. Vegetariana convinta dal 1962, andò alla televisione francese per denunciare le condizioni dei macelli. Vive dal 1958 a Saint-Tropez, Costa Azzurra, nella sua villa denominata La Madrague, oggi abitata da un numero imprecisato di animali che alla sua morte verrà trasformata per sua volontà in museo, le cui entrate finanzieranno la fondazione. Dopo aver lasciato il mondo della celluloide si è dimostrata coraggiosa, indomita e battagliera, in prima fila per difendere le idee e i principi in cui crede. Con i capelli arruffati e le rughe esibite con orgoglio, Bibi non si tira mai indietro, rischiando spesso l'arresto e il carcere. Oggi, 78enne, l'ex attrice ha dichiarato alla stampa di essere scandalizzata dall'arresto di Paul Watson e si è offerta di venire arrestata al suo posto. Bibi e Watson si conoscono dal 1977, quando si incontrarono durante una protesta contro il massacro dei piccoli di foca, violentemente uccisi a colpi di macete per farne morbide pellicce. E da allora è sempre stata molto vicina alle battaglie di Sea Shepherd, a cui ha recentemente prestato il nome per battezzare una nuova nave, creata per fronteggiare i bracconieri dei mari. Possiamo non essere d'accordo su tante altre cose che ha fatto e detto Brigitte Bardot, ma se guardiamo a come spendono le loro fortune ed energie tanti attori, calciatori e personaggi di spettacolo ricchi e famosi, dobbiamo ammettere che Brigitte Bardot è una donna speciale. A Brigitte Bardot dedichiamo la 13ª puntata di Restiamo Animali. Animal House. Notizie, interviste, attualità. La pesca industriale in questi anni sta sottoponendo una pressione insopportabile agli ecosistemi marini, in larga parte deregolamentata, in particolare al di fuori delle 200 miglia marine dalle coste, e anche funestata da una vasta pratica illegale. La pesca è oggi una grande industria globale, fortemente tecnologizzata. Gli oceani sono percorsi da enormi navi peschereccio, lunghe fino a 150-170 metri, dotate di sonar e apparati satellitari, a volte supportate da aerei per individuare i banchi di pesce e attrezzate per pulire, congelare e imballare il pescato immediatamente. Tutto senza la minima considerazione per gli animali e per l'ambiente. Negli ultimi 30 anni il consumo di pesce nel mondo è raddoppiato, mentre le tecniche di pesca sono sempre più invasive e comportano l'uccisione di pesci considerati di scarto, molte volte superiori nei numeri a quelli commercializzati. Un gruppo di scienziati di vari paesi, incaricato dall'Organizzazione Mondiale del Commercio di compiere uno studio sulle risorse marine, è arrivato alla conclusione che gli attuali ritmi di pesca nell'arco di 50 anni si arriverebbe al collasso. Secondo la FAO, oltre l'80% degli stock di pesca analizzati sono già sovrasfruttati. La pesca è ingiusta, distruttrice e insostenibile e deve cambiare profondamente prima che sia troppo tardi. Enzo Maiorca ha imparato a nuotare a 4 anni e presto ha cominciato ad andare sott'acqua, anche se, per sua stessa ammissione, ha sempre avuto una gran paura del mare. Suggestionato dai record dei grandi apneisti, decide di entrare in competizione e si impegna con tutte le forze per strappare il titolo di uomo che è andato più in profondità negli abissi marini. Nel 1960 tocca i meno 45 metri e lo stesso anno i meno 49. È l'inizio di una grande sfida tra l'uomo e il mare, che lo vedrà sulla scena per 16 anni, fino al 1976, anno in cui abbandona l'apnea. Nel 1988, per le proprie figlie Patrizia e Rossana, entrambe celebri apneiste, raggiunge il suo ultimo record, meno 101 metri. Vegetariano dichiarato, grande amante degli acquatici e difensore dei mari, è stato anche autore di alcuni libri. Enzo Maiorca racconta alla redazione di Restiamo Animali un episodio, un incontro che ha cambiato le sue abitudini e, più importante, che ha stravolto la sua prospettiva di animale uomo. Io le volevo chiedere, questa esperienza che lei ha fatto come subacqueo per tutta la vita, quindi la sua grande dimestichezza con il mondo sottomarino, poi ho letto da qualche parte che a un certo punto della sua vita è successa una cosa per cui lei ha attaccato al chiodo il suo fucile subacqueo. Perché? Sì. Che cosa è successo? Perché quello era il periodo in cui pescavo, quindi era il 1967, ed ero un accanito pescatore subacqueo. Lei stava già anche facendo sport, stava già facendo apnea? Nel contempo facevo anche il record. Se non che un bel giorno di quel settembre del 67 mi è capitato, ero in apnea, di sparare una cernia. La cernia si è arroccata dentro la sotana con l'aiuto delle sue possenti mandibole che usa allargare nella tana in modo che il pescatore, anche se tira con tutte le sue forze, non riesce a tirarla fuori. La cernia era una grossa cernia che si è rivelata anche essere molto combattiva. Lei l'aveva colpita? Era colpita in quel momento o non ancora? No, l'avevo già colpita, certo. Io ero in apnea, la profondità era relativa perché si era nuotato un 14-15 metri. Però lei era un pesce, io ero un uomo immerso in un ambiente che non era il mio. E allora, dopo aver lottato contro la cernia da sconfitto, ho cercato di rendermi conto di come questa cernia fosse incastrata nella tana per eventualmente agire contro le sue stesse mandibole e ho passato il palmo della mia mano destra lungo la sua gola, chiamiamola così, verso il suo ventre. Arrivato a un certo punto nel far questa manovra, la cernia ha scagliato contro il palmo della mia mano destra il suo cuore, ed era un cuore che io ho sentito pulsare terrorizzato, impazzito dalla paura. Non mi era mai capitato di sentire fino allora un cuore di pesce terrorizzato. Quella volta l'ho sentito e quella volta, per la prima volta nella mia vita, ho capito che fino ad allora mi ero comportato da barbaro sul fondo del mare, perché avevo dispensato, avevo distribuito morte in un ambiente in cui la morte alligna abbondante, però per necessità di sopravvivenza. Io non dovevo sopravvivere con quella cernia, perché il mio mangiare in superficie l'avevo. Il mio cibo l'avevo, quindi non mi serviva per vivere né per sopravvivere, era soltanto il gusto balordo di arrecare morte in un ambiente che io amavo e amo immensamente, il mare. Prima di quel momento lei come li vedeva i pesci? Cioè quella stessa cernia, se lei non avesse toccato il suo cuore, come la vedeva, come la sentiva, come la percepiva? Mi era assolutamente indifferente. E la percepivo inserita in quell'ambiente splendido che allora era il mare, la percepivo come bellezza. Nonostante questo, io ero disponibile a sparare alla bellezza, perché ero talmente accanito nella mia vanità di uomo che doveva distribuire vita e morte sul fondo del mare, che non valutavo che cos'è che fosse, era un animale da abbattere. Lei si sentiva alla pari con la cernia quando pescava prima di questo momento, perché riteneva che comunque, per quanto armato, il suo sforzo di apnea la mettesse in ogni caso in una sorta di squilibrio, di forze rispetto ai pesci o cosa? Io ritenevo allora che l'uomo in apnea fosse inferiore al pesce, tant'è che io dicevo sempre che invidiavo ai pesci il divino dono delle branchie, ma in realtà coloro che erano in stato di inferiorità, nonostante le branchie, erano i pesci, perché l'uomo già allora aveva tali e tanti di quegli strumenti che poteva far pagare ai mitici abitanti del mare la loro supremazia. Eppure il danno che può procurare un uomo in apnea, per quanto munito di fucile, non ha niente che possa equivalere a quello che combinano certi pescherecci moderni. Io sono d'accordo con lei, ma non soltanto i pescherecci, basta pensare alle industrie che indiscriminatamente scaricano in mare tutto ciò che lavorano. Basta pensare agli scarichi fognari, ai pescatori professionisti, alle reti a strascico, ai pescherecci giapponesi, e navigano con al seguito il peschereccio officina, perché una volta che pescano 1.000 o 2.000 tonni, non si meravigli dei numeri, ma è così, questi tonni vengono massacrati subito nel peschereccio officina, tagliati a fette e subito messi sotto olio. Come ha cambiato la sua vita, il suo rapporto con gli animali, col mare, ma anche nel suo quotidiano, questa esperienza del cuore della Cernia? Alla base del tutto, alla base della mia vita, c'è un credo, ed è quello di non arrecare sofferenze ai miei simili. E per simili intendo cani, gatti, buoi, pesci, uccelli e via dicendo. Regno animale, quindi. Regno animale, ma perché l'uomo che cos'è? È un animale. Infatti la nostra trasmissione si intitola Restiamo animali. È bellissimo. Abbiamo al telefono Gianfranco Laccone, un amico che ci ha raccontato come mai, dopo una forte crisi d'asma, ha deciso di smettere di mangiare il pesce. Gianfranco, raccontaci la tua esperienza e la tua riflessione. Beh, innanzitutto un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. La crisi d'asma fortissima che ho avuto qualche mese fa mi ha portato, diciamo, in condizioni estreme, diverse volte all'ospedale, una volta in rianimazione. E in una di queste occasioni mi sono guardato allo specchio, mentre respiravo in modo affannoso e mi mancava l'aria. E quindi l'espressione del viso, la faccia tirata, questa espressione allargata in cui uno, girandosi attorno nell'aria, naspa e vuole respirare, non riesce. Poi, quando mi è capitato, dopo che mi sono rimesso, di andare al mercato e di guardare, insomma, i pesci sono in cassetta. Io fin da piccolo sono nato a Bari, una città di mare, il pesce per me era una componente, diciamo, quasi facente parte dell'alimentazione. Però quando si vedono le espressioni del pesce, soprattutto quei pesci più grossi che hanno un'espressione più tirata e con queste branchie larghe, e io mi sono rivisto allo specchio e quindi vuol dire, non riesco a guardare il pesce e a pensare che quello muore come moriamo noi, sente le stesse cose. Il problema sempre quando si mangiano altre cose è quello di sentire. Se tu senti che hai un rapporto, una compassione, un sentire appunto identico con qualche altro vivente, è difficile che riesca a mangiarlo, soprattutto quando questo sentire ti porta a vedere quello che per noi è sempre il lato oscuro della vita, cioè la morte, e lo vedi che per gli altri viventi è uguale. Già da un po' di tempo avevo eliminato tutti quegli animali che sono viventi e che vengono mostrati, messi lì sui banconi mentre muovono ancora le chele al naspa, i poverini alla ricerca di qualcosa che non troveranno più. E già allora, diciamo, questo genere di pesce, questo aragosto, questo li avevo eliminati, perché uccidere oppure fare come si fa in tante tradizioni culinarie, pelare vivo un vivente, diciamo, non mi sembra la cosa migliore. Mi sembrano quei fumetti di Topolino quando si facevano vedere quelli che bollivano nel pentolone. Può essere in un fumetto divertente, ma solo nel fumetto è divertente. Contrariamente a quanto si dice sempre, gli animali non guardano, non reggono lo sguardo dell'uomo, è l'esatto contrario. Tutti gli animali, pesci compresi naturalmente, reggono lo sguardo dell'uomo, e dallo sguardo, quando si ha lo sguardo vuoto, uno vede e capisce tante cose. Insomma, quando uno perde l'aria allo sguardo vuoto, inizia a avere lo sguardo appannato, esattamente come ce l'hanno quei poveretti che stanno sul bancone. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Oh, Perle agli umani, letteratura per la liberazione. La perla letteraria di oggi viene dal passato. Plutarco, del mangiare carne, ad Elfi edizione. Di Plutarco, filosofo greco che visse sotto l'impero romano, sono rimaste diverse opere e tra queste troviamo la raccolta di trattati che va sotto il nome di Moralia, in cui sono contenuti questi scritti raccolti nel volume del Mangiare carne. Il filosofo, usando un linguaggio semplice e incisivo, disserta contro l'uso alimentare della carne, asserendo che è innaturale cibarsi di carne, perché non siamo fatti come gli animali carnivori. È un alimento che arreca danno al corpo e alla mente, che viene consumato solo per compiacere la gola. Afferma che le stragi di animali sono ingiuste e contrarie a qualunque principio d'umanità. Leggendo queste pagine colpisce l'analisi, l'attualità dei temi e delle parole che ritroviamo anche in libri di autori dei nostri giorni. Questa contemporaneità però induce una riflessione. A distanza di secoli, gli esseri senzienti non umani sono sempre in prima linea a pagare il conto di una cultura specista, nonostante l'impegno di personalità della sfera culturale, di movimenti che si battono per i diritti animali e delle persone comuni che fanno scelte etiche e di non violenza. E adesso un piccolo assaggio delle riflessioni di Plutarco. Come poté la vista tollerare il sangue di creature sgozzate, scorticate, smembrate? Come riuscì l'olfatto a sopportarne il fetore? Se però sei convinto di essere naturalmente predisposto a tale alimentazione, prova anzitutto a uccidere tu stesso l'animale che vuoi mangiare. Ma ammazzalo tu in persona, con le tue mani, senza ricorrere a un coltello, a un bastone o a una scure. Fa come i lupi, gli orsi e i leoni che ammazzano da sé quanto mangiano. Uccidi un bue a morsi o un porco con la bocca, oppure dilania un agnello o una lepre e divorali dopo averli aggrediti mentre sono ancora vivi, come fanno le bestie. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Ricettina un po' esotica e un po' no, oggi pasta con pesto di alghe. Non amo particolarmente le alghe, sia per il sapore che per il colore. Ognuno naturalmente ha le sue fisse. E non mi piace la leggendaria aura radical chic salutista che le ammanta. Quindi propongo una ricettina un po' dissacratoria, trasformandole in un condimento da pasta e non per cibi minimal a zero impatto di grassi. Ovviamente il tuo personale punto di vista tra il mistico, l'asiatico, l'esotico e l'erotico è interessantissimo e ne terremo senz'altro conto. Purtuttavia me ne discosto ed esorto i nostri ascoltatori a sperimentare ricettine con le alghe che apportano tanto iodio e buon calcio alla nostra alimentazione. Noi che aspiriamo a un frigorifero senza crudeltà non mangiamo pesci né molluschi, ma ci è gradito mantenere un rapporto, come dire, papillo olfattivo gustativo con il mare, che con le sue alghe ci dona frutti assolutamente cruelty free. Di calcio ne prendiamo già tanti durante la vita e lo stesso lo odio. Quanti odio? Cioè, quanto odio? Odi molto? Stamattina torna odi, a me. Odi parecchio, parla per te. Ingredienti: 10 grammi di alghe nori in fiocchi o a fogli da sbriciolare, 30 g di mandorle, 30 g di ghirigli di noce, un cucchiaino di curry, un cucchiaio di succo di limone, 70 g circa di olio extra vergine d'oliva, sale. Volendo ci sta anche mezzo chilo di cumino, ma non lo dite a Giuseppe che non è d'accordo. Per chi ama invece le fiatate forti, può aggiungere un bello spicchio d'aglio. Preparazione: tritate la frutta secca, aggiungete le alghe, limone, spezie, olio, sale e frullare tutto. Se occorre, aggiungere un cucchiaio d'acqua per rendere tutto più cremoso. Nel frattempo, cuocete la pasta e dopodiché condite, perché da Oriente a Occidente noi Sgraniamo vegano. Aggiungo che faccio un delizioso crostino con pane grigliato, uno strato sottile di salsa tahina, uno strato ancora più sottile di senape e on top ci metto alghe nori sbriciolate di cui sono ghiottissima e che le è anche un po' il subello. Come direbbe Brigitte Bardot, ma anche Carla Bruni Sarkozy, vive la différence! Sostiene Vallauri. Il pesce è il grande ignoto, anche per gli animalisti molte volte, perché i pesci sono muti come pesci, non copulano e quindi chi non copula non gode e chi non gode non soffre, non lo so, insomma nessuno se ne occupa della sofferenza dei pesci. Invece agonizzano a strappi, si dibattono, si arcuano. Io ho dei ricordi terribili di agonie di pesci accanto a nonnetti buoni che li tenevano nelle loro reticelle. In Bhutan è vietato uccidere tutti gli animali e in particolare i pesci, perché li uccidi fuori dalla loro atmosfera. Almeno il camoscio muore perché l'uomo predatore lo sopprime nel suo ambiente. Invece il pesce agonizza. Questo mi ha molto colpito. A parte il fatto che soffrono, ci sono degli orrori inutili, incredibili nelle catture, per esempio la mutilazione delle pinne dei pescecani per ottenere arrizzamenti di cinesi sessualmente deboli, il massacro dei globicefali in Danimarca. Ho scoperto l'associazione animalista Sea Shepherds che fa proprio interdizioni fisiche di queste catture orrende, orrende non solo per motivi di biodiversità. Ma ripeto, anche i nonnini buoni che istruiscono i nipotini a me sembrano una scuola di inutile crudeltà. Poi bisogna parlare degli allevamenti intensivi e della macellazione industriale dei pesci. Salmoni convogliati in tubi a velocità vertiginosa e squarciati in serie con le budella che fuoriescono. Qui, come ho detto tante volte, viene pietà anche per gli operai e le operaie. Una che deve tirar fuori centinaia di visceri di salmoni appesi per la coda al giorno, tutti i giorni. Tutto questo porta a una nuova attenzione per quello che si chiama il fish welfare, il benessere dei pesci. C'è anche un sito su questo, io sto seguendo una tesi su questo e mi fa pensare che forse sarebbe da tutelare il sentimento di coloro che entrando in ristorante devono passare davanti a quei frigo con tutti i pesci con l'occhio vitreo esibiti sul ghiaccio. È un po' come vedere le porchette, un salame viene dal maiale ma ci sono gradi di oscenità e la porchetta tagliata progressivamente al supermercato fino agli occhi è più oscena e il pesce con l'occhio vitro sul ghiaccio è più osceno. Io sono convinto che saremo di stupore a noi stessi tra qualche decennio pensando a quello che stiamo facendo. Profondità degli abissi marini, la redazione di Restiamo Animali riaffiora per ricordarvi che troverete fotografie, contenuti, ricette, interviste e il podcast di questa e di tutte le precedenti trasmissioni su restiamoanimali.it. Brigitte Bardot, Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.